Gioia, questa accezione. Quattro, tu sei debole. Io sogno. E andemmo. Aspetta, vabbè, riposato di sì. Se mi fa male la cuccia, mi fa male. Sono dovuto aspettare il tram, cazzo, la 25, la piazza Monte, no? Dalle 7 un quarto è arrivata alle 8 meno 10, quasi un'ora. Andiamo. Lui si è sempre arrestato. Ma è bello che è tutto buio, cazzo, arrivavano le vampate dei cannoni che si fumavano in quella piazza dietro dove c'è già vino. Capito? Fuori da solo, aspettando il tram, immaginati tu cosa può pensare uno, poi al buio pure. Perché i lampioni non erano accesi? Neanche io non funzionava di quei lampioni. Tutto buio era. Si vedeva solo i lampioni dei sotto casa di Giovanni e basta. Yes. Andiamo. Dai. Deve essere la zona che si è staccata qualche palo. Allora da fatto un voglio grazie a tutto al buio. E poi la 25 fa giro del casino, passa lì, poi va a Santa Maria di Pisa, c'è Santa Maria di Pisa, poi passa avanti a casa tua. E quindi sono andato qua alle 8:20. Devi essere un po' direttato, devi essere. Pensa un poco. Sì, la prossima volta posso piare quella, piegavo la 4. Mi fermavo davanti a qualcosa. A Bavarde mi fermo. Mi sono anche questa volta una pedola da 25, finirò a 4 e forse quella è molto più veloce. E la domenica è che sono che arrivano più in ritardo, però negli altri giorni facciano uno presso all'altro. Io non stavo ancora la domenica, sono più in ritardo, vabbè, che hanno fatto quasi un'ora fermi, alla percezione, quindi. Ah, la pigrido, per forza non ho tardato allora. La pigrido con la processione sono rimasti più di un'ora fermi. E quindi avevo dovuto recuperare, capito? Pensato per quello. Ma è così, infatti. È per quello che sono rimasti fermi. Infatti, ero fermi, quasi un'ora visto. Guarda, ma già abbiamo fatto galoppare, ma tu immagina se fossero fatti come l'anno scorso, che camminavano piano piano. I treni sono più veloci, perché Giovanni ha fatto camminare un po'. E infatti, a quello della banda che ho detto, quello con gli occhiali, ho detto quest'anno che li facciamo camminare più veloci, li facciamo camminare, me lo arrivate prima, in chiesa, se no detto non mi passa più. Sì, vabbè, ormai è passata, al prossimo anno. Beh, ormai è passata sì, il prossimo anno già saranno più veloci, però quest'anno sono, erano dei cani morti, due panini piccoli e un bicchiere di racciolo. Evidentemente il comune non gli aveva dato fondi. cosa gliel'ha dato, sì, solo che l'anno scorso invece che è passata a fare il ferro, allora il canale ha sentito un po' garito, e l'ho preso. Avanti. Buonasera, ciao Tore, ciao Tonello, sempre le sconsulti. Se manca roba uno prende un po' di ciaffata, la dammi, la regà, comunque non è niente. Lui è secca, lo vende là, è secca. Antonello, me l'ha usato, vai. Sono chiamati a Alessia in giro, da Alessia in finale. Sono svegliato presto. Questo per due ginseng. Ho fatto colazione, poi... mi ho guardato un po' di televisione. Poi ho preso e mi sono luogo ricoricato. Alle 11 mi sono alzato. E sono stato qua a casa. Una signora, Simona come sta? E oggi è... c'ha problemi alle gambe, non vengono le gambe oggi. Io stavo bene, vedi? Forse è il cambio del tempo, no? E aggiungi, aggiungi, sta bene, aggiungi, sta male. Bene, avanti, Tore. Cosa ci puoi fare? Siamo tutti così. Oggi vai ad un'ora e domani no. Quindi, è tutto così. Ma c'è una portante, cioè, mi sbaglio? Portante? Boh, non lo so, così ce la sto ponendo a me. No, esatto, perché l'avevo detto, no, adesso no, adesso no. Ok, e chi l'ha detto, se no, stai scherzando. Magari qualcuno provando, succede. Giovanni, non c'è. No, non è entrata ancora, non lo so, ho in tournée. Ehi, adesso sta, adesso entra, là, fra 10 minuti già entra. Avanti, sento me, hai camminato domenica, ti ho visto correndo, eh? Correndo, la zia stava correndo, stava spingendo la carrozzina, hai detto la carrozzina, dietro la carrozzina, la bambola questa, se me ne vado, ho detto che pure mi sembra lì, mi sono avvicinato, ma già la seggiorina, sì, sei la sono io, mi ha detto, perché te l'hai detto? E perché la persona ha detto, perché non ti siedi? No, voglio camminare, devo vedere la casa correndo con le gambe. Voglio la voglia di correre, camminare. Stavo dicendo, ma stavo usando il pioniere? Sì, è tutta la ricetta, la brava. L'avevo saputo da serio. Vabbè, avanti un po'. Eravamo in tre. Per una piccola processione, che è andato tutto vero, hanno tratta di pochi nulla. Ma dico un po' col cazzate, ma parati di cui stiamo utilizzando sono quelli della processione, accettare, non lo so. Qualcosa è uscito sulla gente, ma ho visto che stiamo tutti utilizzando, anche la situazione, il foraio, siamo tutti permessi, ma sta accettando. No, non c'era proprio nessuno. Era silenzioso, vero Antonello? Sì, non proprio, perché quando ho preso la 25 c'era di più anche della torre che stava usando il canale 2, hai capito? Cioè, c'era gente già, c'è anche stato la domenica, poi vabbè anche gli altri giorni. C'è il 3, c'è il canale 1 che usano, poi ci sono i bar, addirittura il bar che c'è il via Favarini, quelli che hanno portato che usano sul canale 8 sono quelli, capito? Per non fare abusi, cazzo, cosa vedo, là c'hanno un portato della Bondi, mi sembra che Esatto, e qui a Torre già le uso il 2, anche il 3 lo sentite, capito? Bene, vera, Torre va. Infatti è così, qualcuno già lo usano, magari quelli per lavorare da una distanza all'altra se lo usano. Ah, se vogliamo usarlo, a noi non ci interessa nulla. Ognuno fa quello che vuole, non è che va. Bonfonello. E aspetta, vabbè, scaldo, la cena, la proiettiamo subito. Sì, saluta Bonfonello, ci vuole, saluta. Vabbè, e allora sto, il cane a passeggiare, portato, sì. Alle 4:30 l'ho forso, poi il saluto, mi. E da la padrona, tutte le grugno che ha mangiato. Già, è curioso il suo gatto. Andiamo già un po', 4 volte al giorno, o 3 volte. 3 volte al giorno mangia. Allora porto 4 volte al giorno. E mangia 2 gusti. Perché qualche mattina ti ho visto, non mi sto sbagliando. La mattina presto mi vedi, poi lo scendo verso mezzogiorno e mezzo, poi le 4:30 e le 9:30. Ormai lui è già, c'ha quel tunnel, è già calato, capito? A quelle ore sta già che non uscire. È così, bene, nera. Lo sa più lui che io, ma è getta, Saragliana, a Pusciallo. Perché ormai ti guida lui a te, ormai sei vecchio. Ormai tu sei vecchio, il cane sa dove lo devi portare e ti tira lui, al contrario. Ah, ti va già a tira. Però, per molte volte sono io che lo chiamo a che cucato. Rimane un po' sveglio. Non mette dentelle e passi a raso e basta. E dice, sembra bene lui che esce fuori. Ma sai, si sbaglia il cane, si sbaglia pure senza loro le femminucce e così via. Ma la gente è proprio le piace delle femmine, ma un cane è femmina, pare delle femmine. Non le piacciono le donne? Ma le donne gli piacciono, però no, il cane è femmina, Le femmine gruppi. Non ho capito, vabbè. Allora, quello lì l'avevi fatto sterilizzare, non mi sbaglio? Ella ha portato a sterilizzarlo e adesso ma ce l'ha ancora il suo odore, lo senti ancora per forza. Io sono ragazzi qui fuori in campagna, diciamo, è sterilizzato, però ma è regione di gente, ragazzi, di aghelli a tutto andato. Bene, vediamo se Antonello è entrato. Antonello non è entrato, avanti tu. Infatti così l'ho portato, ci ha tenuto 2 giorni e poi l'ha ritirato, mia figlia l'ha ritirato, 200 euro, solo che si è dimenticato di lasciare il fondo. Purtroppo costa, poi il denaro ormai è diventato, piatto col caro, io voglio dare 3 cani sul fondo, c'è da fare. Stavo dicendo, in quanto alla base, sempre i soliti, più Antonello e cose, come si chiama, come dico, Giovanni? Sempre quei 3 siamo. Prima c'era Bacchigio, adesso Bacchigio non c'è più e c'è Antonello. E già va bene, tanto se va uno al centro, uno all'ingresso e uno all'uscita, giusto? Sì, infatti è così. Uno davanti, uno in mezzo e l'altro a Guadalapino. Esatto. Ma preparazione, ce ne senti, no? Un pochettino ne sento, però non assai. Poco fa l'ha sentito quando l'ho acceso. È silenzioso. Sono le 8:30 stanno arrivando qua. 8:30. Vabbè, meglio così, là. Stato già bugio, è già bugio. Sono le 7:15, è già buio. C'è qualcosa sollevato, l'attenuatore, e per quello non sentivo, me lo lascio uscire, ma non sento la propagazione. Vabbè, è più silenzioso. Allora, è andato via anche, come si chiama, Valanella, Gaetano, è andato via. Altro via Elio, Carino, la sua sede, poi non vedrà più. si è terminato. Solo che Elio è andato con l'età, all'età Elio. Invece c'è Pierpaolo, Tola, che ancora non ha ricevuto nulla pensione, è da aprire, lo prendi con te, chissà che casino c'è, già lo sai Pierpaolo c'è anche la pensione di valutà, e magari lo prendi con te, è incasinato a morte, anche lui per l'età è andato. A metà è andato, a metà dovrà aspettare. È da aprire, ancora non ho ricevuto nulla, da aprire. L'abolazione è già a me già aumentato sinceramente, io gli ho detto, fai, è andato in chiesa, è andato nel basso, sai che è sotto nel basso. Io ho detto da parecchio informarsi da prima, tutto quanto, invece dormi, ci cita il nome. Ce ne ha fottito, ecco cosa è. A me cosa c'è stato? 10 giorni, come sono andato in pensione, 10 giorni, ai 14 ho ricevuto la pensione. Io cosa ho fatto? La mia signora mi ha detto, lei è in pensione dal 1 gennaio, io dal 20 di dicembre, dal 20 ero in fede, cioè un po' di fede fino al 31, e poi non sono più entrato, poi il 7 mi è arrivato il coso dall'Inps, il coso della domanda, come sono accettata, ero già messo in mezzo ai cose pensionati, il 7, l'8 c'ero già il cedolino, l'ho fatto, il 15 ho tirato lo stipendio di dicembre, il 22 ho tirato la prima pensione, capito? Il 22. E poi io ogni primo, diciamo, capito, come te. Io ho ricevuto sia la pensione che la paga, ho ricevuto. Dopo di 3 mesi ho ricevuto il coso della liquidazione. No, io quando ho preso il stipendio di gennaio, che era quello di dicembre, c'era quel poco che mi dovevano dare un'inflazione insieme a 2 giorni di ferie che mi hanno pagato, va, capito, tutto a posto. Invece il primo ambiente mi ha fatto morire, mi sono passati 4 mesi, mi sono 5 mesi, per una virgola l'ho messa nella domandina, che aprì una richiesta, una virgola, e meno male io l'ho chiamato, se non chiamavo, questi non ti chiamavano, non ti avvertivo, niente, hai capito? Però mi hanno tutelato, niente da dire per quello lì, anzi, mi hanno dato un bonifico anche di 160 euro, adesso mi è arrivato, la cosa hanno fatto i finali dei conteggi, capito, ci mancavano e me l'hanno mandato. A me me l'hanno mandato, 160 euro me l'hanno mandato a Bassano, me l'hanno mandato, dopo di 6 anni, mi hanno fatto i conti e risultava, ma me l'hanno mandato. Svegliate, ho versati, ci hanno mandato in assegno, ho versati e ecco qua. Ma è già tutto a posto come cosa. Esatto, poi io da gennaio fino a giugno ho ritirato una cifra, ritirato, capito? Da gennaio a giugno, perché da me ci mancavano 4 mesi, 5 mesi di contributi che l'azienda doveva versare, ma è regolare, perché mi ha detto poi il patronato, ma guardi, anche a noi versano 3-4 mesi, dunque appena versano loro, appunto ho ricevuto la lettera dall'Inps con tutti i conteggi che mi hanno fatto e c'erano altri 130 euro in più, cioè da qua cifra che stavo prendendo. Più di altri arretrati. Gli arretrati sono tutti contro il biliardo euro, gli arretrati da gennaio a giugno, quello magari mi sono toccato solo quasi 200 euro e 600 già in biliardo euro, in dazi. Non lo so come tesoro, 10 miliardi di tasse, 10 miliardi, ecco lo sai. No, a me che hanno fatto i conti mi hanno dato 160 euro e spiccio, e dopo di 10 anni. vuole essere scritto. Ma come andare la posta a posto, è regolare, diciamo, arriva regolare e basta. Avanti che vuoi andare? Servizio di portante. Sono di portante, sei uscito. Antonello. Attaccatemi in casa, non vado male. Adesso sei uscito. Adesso. Ok, avanti Antonello. Portavo il cielo che avevamo avuto un accidente, mi è arrivato la... i fogli, sono arrivato 77% era stato il 100% mi aveva lasciato. Abbiamo fatto l'articolo 3,1, vuole per dire c'è un cazzo in pratica, allora mi conviene invece che ha lavorato lì al bar che c'è all'emiciclo da Torino, perché si è frantumato un osso del piede e in più per tutte le sigarette che si fumava si è pigliato una trombosi alle gambe e ha dato immediatamente la pensione. Comunque a te sei da posto, risolto, sì. Non sono risolto, niente, il 77% non ha avuto niente di pensione, quindi devo fare solo la denuncia all'INPS, cioè tramite patronato, devo mettere l'avvocato e poi ci passa l'avvocato del patronato. Il 77% non è nulla, non si ha tenuto, manco si ricoverà anche di dare 67, minimo dove si avrebbe 65 oppure 80 oppure qualcosa di più. Stiamo cambiando le cose e ormai c'è un caso rosso, stiamo tagliando dopo pensioni gratis gli hanno dato prima, non preso adesso se stanno prendendo quante persone che hanno bisogno, proprio quelle che tocca, a chi le tocca non le stiamo dando, capito? Stiamo bocciando. Avanti ciò. Totale in contrario, Gioffelli. Parliamo del Pantefano. Infatti, per un amico mio che doveva ritirare. Gli hanno mandato la carta, però, senza bollire di rinà. Ah, gli prego già di rinà da fa, se no se la bollire di lì. Ah, oh, mi deve dare di là. Io con l'Ipsi, mi diciamo che non c'è una persona all'interno che conosci e passi avanti, se no poi è un casotto. Se non bisogna seguiti l'avvocato, se non c'è l'avvocato, ciccio, hai messo avanti Antonio. Poi infatti adesso mi metto l'avvocato del patronato e vediamo un pochettino se riesco a risolvere questa storia. Devo fare la risonanza magnetica, devo fare. Adesso domani c'è appuntamento all'INAR per fare l'agenzione 503, capito? E così almeno c'è qualcosa in più. Poi dopo quel foglio vado direttamente al CAF e da tutta la mano cosa, fatto l'altro. È un casotto, avanti ciò. È un caso, ti giuro. Poi non c'è uno personale all'Ipis e quindi stanno rallentando pure. Ecco cos'è. Ah va, devi venire invece andare a prima, che un sacco di gente se ne è andata in pensione e non c'è personale. E cosa è vero, però stiamo assumendo lì. C'è una domanda di attenzione all'Ipis anche da poco sul giornale. Anche la porta non si può male, boh. Avanti, molto bene. Non era sia lontano, ciò levanti. Sai cosa è? C'è le cose lì, se ne affutti. Se ti chiamano domanda in personale, continuiamo. Ecco cosa è. Esatto, se c'è quello che se ne frega, poi magari c'è qualcuno, magari qualche anziano, uno ha bisogno, non è che ci va lì. Se rimane che cammina, c'è nulla. Poi è un casotto, sta entrando, un casotto, se non c'è nessuno dentro, è un casotto. Antonello, avanti. Antonello, entra avanti, entra la motore. Infatti è così. So sempre vende casino. L'altro giorno c'è andato uno che abita qua, è salito perché nella carta dice che non gli hanno messo nulla. L'ha detto, dovrei aspettare, sarà questione di una settimana, due. Indio l'ha fatta via con cosa magno, con le cose magno. Allora questo qua l'ha portato su, ce n'era uno libero e vi l'ha fatto. Ma come arriverà lì tu che era libero e gliel'ha fatto? Tempo a due giorni ha ricevuto i soldi. Purtroppo non avere fortuna, ti ho detto, se non c'è qualcuno dentro che conosce o di via e ti aiuti, e tu vai di via e non sai dove muoversi, che ti aiuti, ti spieghi, capito? Se no non fai nulla, zero, zero, zero, zero, non riporto zero, sei un casotto, sei un grande casotto, non via. Bene, Antonello? Sono diventato. Io ho fermato un mese senza nulla. Se mi hanno mandato un messaggio di un cazzo, guarda, il 27 non ho visto niente, 28, 80, 29, lo stesso, 30, a un certo punto. Mi hanno risposto, ma dopo un bel po', infatti che c'avevo il telefono muto sempre, l'hanno messo occupato per almeno tre settimane, perché l'avevano bloccato a tutti, perché avevo combinato casino, perché erano tutti in ferie, negli uffici, capito? Allora, mi sono presentato lì, hanno osservato, che ti devo parlare con qualcuno qua, io senza freddo non ci rimango, gli ho detto. Non ci arriva qua da 15, gli ho detto. Se adesso vengono domani, mi ha detto. E invece mi è arrivato il messaggio. La sua domanda è stata accolta, ma l'hanno scritto. Allora qualcuno ha detto, cazzo, la prossima volta non mi trombano. La prossima volta quando vedo che mi pratica ritiro tutti i soldi assieme, mi sono arrivati dalla direttamente all'Inps a vedere cosa c'hanno in testa. Ciao Antonio, ma tu lo spidi, ce l'hai? Sì, ce l'ho, ma è un casino usando lo spidi nel telefonino, hai capito? C'è anche la carta CECO addirittura. Ma direttamente di ammazzato, mi presento lì, ce la prendo in culo, capito? Sotto prima, a me le parlo con lo responsabile, poi già si muove da loro dentro. Inutile entrare dentro, per sapere il perché, hanno bloccato tutto. Anche il mese scorso, su Google c'era un sacco di gente che gli hanno bloccato, stanno bloccando le carte per conto loro, a un sacco di gente, non so perché, per fare i controlli. Che cazzo di controlli devono fare? Devono fare il foglio ISA del 2024 nuovo. Ma insomma io ho sentito una cosa anche, l'Inps ogni tanto manda certe lettere, le lettere che tu c'hai il cellulare, ti metti il codice di posta, posta in arrivo, l'Inps ti manda la lettera, se tu non leggi quella lettera che ti manda l'Inps oppure ti chiede qualche documento, loro la prima cosa che fanno, ti bloccano, no a te, bloccano tutti. Poi c'è stata altre persone, stiamo parlando la settimana scorsa, e mi ha detto, lo sai così, mi è arrivata la posta, cioè io non ho controllato, che mi richiedevano un certificato, un qualcosa, io non ho controllato e mi hanno bloccato. A quando arrivano i soldi? Io, un casotto, bisogna sempre abbiamo controllato la posta, lì ogni tanto manda lettere, qualche cosa, manda. Tu dici, se io non c'è cosa, purtroppo si avvicina a qualcuno e te lo fai fare. È un casotto, avanti tu. Sì, è tutto un casino durante gli uffici, per carità. È tutto un casino. Se non mandano personale, c'era sempre usci. Sì, ma se loro ti mandano qualcosa sulle cose della posta, e tu non apri la posta e non leggi quello che dicono, no, magari manca qualche documento, manca qualche firma, loro la prima cosa che rispondono, la prima cosa ti bloccano, capito? Ti bloccano e a riprendere quei soldi, ohia, passano giorni, settimane ai compagni, intanto rimane senza soldi, capito? Purtroppo è così, non è so, tu fai conto una signora anziana, come fa? Ora, col cellulare, a controllare, a aprire, se c'è posta o non posta, è un casotto, dai. Avanti Antonio. E quindi è buono, è strano, anche visto. E infatti dal 27 ci sono, di agosto ci sono dovuto uscire dal 27 al 15 di settembre, tu immaginati, senza la linea, senza un tubo, ci sono dovuto far portare i soldi. È un casotto, Antonio, è un casotto. Vediamo se Gio Maria si è liberato. Gio Maria? Se vuol dire oggi è impegnato, Gio Maria, tu, avanti. Oggi è... Sì, è degoso, sicuramente era in campagna e ne ha tardato l'acqua. E magari c'è la figlia, qualcuno. Mi rivolgo, dai, avanti Antonio. E allora abbiamo sentito il giorno che è andata a Balacchino, in PMR, abbiamo sentito domenica sera, ha fatto due o tre passaggi e poi ci ha salutato e poi è rimasto l'ascolto. Ah, sto qui, volevo che sto ascoltando, dai, ci stavo ascoltando. Dove vai? Dove? C'ero dato pure a me, che ero vicino alla Madonna io. C'ero dato pure a me. E Mario, sono passato vicino a te e non mi hai salutato, eh. Hai fatto finta di non conoscermi. A chi? Sto scherzando, so. A chi me la gente, sì. Aspetta, a voglia di venire. È un bel tubo venire. Meglio così, dai. Comunque la sta bene, ha tutto a posto, sì. A voglia, c'è una tutto a posto. Ma va all'anno gli veni. Ehi, fatto, almeno. Fatto, anche quest'anno è passato. Lei tanto me. Adesso. È il periodo che stavamo fregando tutto loro dalle chiese, mi hai visto? Fatta, proprio 5 kg loro sono spariti in quella chiesa. Come il prete l'ha convinto che nella cassetta c'era tutto, invece non era nulla. Poverina, vuol dire serviva con la suola, con la suola sta dicendo. Vuol dire serviva, non è scema, no? Non sarà un tiro ci macchia, no? Avanti dopo. Io ti credo. Antonio, così è. Vi voglio guadagnare invece. Ma chissà che non rimbaccia. A chi tu pensi no, che non le fanno sparire le cose nelle chiese? O sì, o gli lascia perdere, lascia, che non magna magna. E anche non lo so. Non lo so così. A me sabato sono andato a prendermi i fogli. E mi sta portando mi sta portando all'altra chiesa piccola, sono entrati per tanto, non ero così, sono entrati. Allora mi ha attaccato a mangiare. Embriaco, così è. Non ti posso dire nulla, anche se no si arrabbiano. Fatta vedere cosa, è sassista, è pane, è lì, bello d'altro, bicchiere di vino, niente. Chi sa niente mangia più bene di noi, mangia, l'hanno preso, quella gente mangia più bene di noi. sì, ma l'ho cavata, l'ho presa, no. L'ha cavata Giorgio, l'ha cavata. Sì, ma ti si chiama, ma non mi mettere il nome. Hai una cavata. C'hanno un bel roba, c'hanno poi sta roba del regalo, sta roba gratis. Avanti, Antonè. Allora, tutta la roba che devo dare è pubblica, a metà della roba sparisce la roba, sparisce, anche nella chiesa che c'è qui vicino a casa, le associazioni, quelle che danno la roba è pubblica, se ti danno la roba caduta, allora se ti danno la roba buona, dal supermercato, e che ho visto che si caricano la macchina, con palazzi, pomodori, zucchero, tutta quella roba lì, roba fresca. Questo è capito. Questo lavorano. A voi mi sono fatto il calcolo, gli ho detto, ma che cazzo me lo fa fare? Per 10 euro di spesa adesso, andare lì. Allora poi ho detto, ma tu c'hai il coso? E poi ti ho detto sì, ce l'ho detto. Allora dice un piccolo, che è meno male, gli ho detto, perché tanto non me ne facevo un caso di questa roba, gli ho detto. E tu stavo bavariato, ce l'ho fatta, ho detto, a rimanerci in secco. Ora se la può anche tenere, ho detto, sono di voglio, date a chi ne ha bisogno, a quei migranti, gli ho detto, almeno se il capo soccorso sono affari loro. E tutta quella roba è stata roba che regalano i supermercati prima della scadenza, capito? Prima della scadenza le versano alle chiese, a questa roba qua le versano, intanto allora le facevano l'elenco, poi allora le rimborsano le aziende, capito? Anche in macelleria, quando facevano il servizio, quando la domenica mattina capitava il meccano, poi c'era la mensa. E il sabato il macellaio le portava un carrello di carne, capito? Carne. E la domenica mattina cucinavano, guarda, ho visto anche il forcetto, l'agnello cucinando, dando via a quelle persone che andavano a cena, a pranzo, capito? C'era una roba buona, l'illusione che c'era roba scadenza, insomma, in scadenza. E anche loro la devono dare, capito? Ma quando c'è roba scadenza, se non sbaglio c'è un termine, anche se è scaduta, termina, si scade, la puoi usare fino a un mese dopo, se non sbaglio. Vero o no? Ma che credo? Sì, quella roba lì, allora... Vai dalle suore qua, vai dalle suore e ti fanno la busta. La gente non ti manda. Stanno a mezzo a Tirozzi. Perché io vedevo gente, prima a Sassari, vicino a questura, gente da Tirozzi. Poi la vedevo ai pini, in via Solari. Poi passava alle suore vicino alla chiesa. E poi c'è un altro posto che andavano, vicino a Domenico all'angolo, c'è quel sindacato. Anche lì non andava a spesa, capito? Sì, anche lì ti danno la spesa, per gente che non ce la fa. Purtroppo gente che ha amici la pensione, oppure c'ha figli che non stanno lavorando e cercano di aiutare, purtroppo è così. Niente da dire. Avanti, Antonio. Ma non sai quanto quella la palla dovranno? A chi dica? Ma a chi diranno bene? Ma l'ha chiesto un giorno uno, dice, a me vuoi che la palano? Fatto lo dove ci mi ha dato, dice, del suolo mi ha dato, che ci sono qua a Santa Maria di Pisa, mi ha detto. E tu ho detto, e boh, beato te, gli ho detto. E danno gli spicchi di Gran Padano, sì, guarda, l'ho visto anch'io perché c'era gente, quando stavo lavorando, gente se la vendeva. Se la vendevano per un vino, non hai capito? Per un vino se la vendevano, guarda che punto sono, avanti tu. Io ci sono delle drogate, quindi dice che hanno bisogno di vino, l'ho preso, ma si sa. Mari, io chiudo perché è venuta gente, c'ho gente qua, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao signor Mari, ciao Antonè. Ok, ciao, ciao, ciao tu, signore, dai, sono stato il suo dai, avanti Antonè. Ciao, ci sentiamo. con quelli di buon tutto. Avanti, Mari. E quindi sei pensione, avanti così tranquillo, avanti. Va, non ti dico male, c'ho un puntagnetto di prima, c'ho incertinato a morte. Un periodo critico, c'ho la madre di mia moglie, non sta molto bene, mi tocca se salire e scendere da casa sua, portare mia moglie, preparare il pranzo e così. Oia, sono impegnato. Si già passa. Dopo venire a trovarti non ce l'ho fatta. Mi trovate che venga a novembre, c'è una visita vicino anche da tua. C'ho una visita che faccio ogni anno, anche con la regola faccio due volte all'anno, quindi invece me l'hanno abbassata. Va bene, dai. Avanti ancora. Sì, vai a andare all'INAM, così mi faccio questo deciso dopo. E poi venerdì vado dal medico, venerdì sera, per dargli l'esenzione, poi mi faccio fare il foglio per fare la risonanza magnetica e poi telefono a Barcellona. Vediamo quanto mi fanno pagare. Così poi vado dal neurologo. E poi si arrangia tutto un avvocato, perché non mi avvendo, non me ne sbatte un cazzo. Quello che mi tocca, non me ne sbatte nulla, se mi danno 380 euro al mese, però almeno sono i miei. Non devo stare con questa roba qua che non è balle piene, la verità. È un casotto, lo so. Ecco, mi stai arrivando a 9.18, funziona bene con l'antenna che ti ha fatto, va benissimo, 9.18, più ottava, ottimo. Poi dammi un segnale anche tu quanto ti sto arrivando a te. Un passaggio? Guarda, in questo passaggio, 1, 2, 3, prova. Sì, anche tu, questo segnale tu. Anche tu, 9.18. 18, 60 watt di potenza. Uscendo. Sta andando bene l'apparecchio. Ma l'amato ma sta funzionando. Ci aveva fatto poco l'anno quella cazzo di Mantova. Fanculo a me l'ho piazzata. Già era bella perché è pesante pure. Però il fumo mi ha pigliato proprio in orizzontale, mi ha pigliato. Forse è stato il fulmine caduto nel palazzo, sarebbe stato tutta un'altra cosa. Invece il tuono è partito da lontano. Io ho sentito solamente il tocco del piello, come se avessi acceso come si chiama, ha fatto una scintilla. E poi il televisore di Simona gli ha fatto un buco quanto un coso, di diametro tra 10 cm, certo l'ho spinato l'alimentazione. Ma sta sciolto tutto, sta sciolto, è il fulmine. Il fumo è maledetto, il fumo è maledetto, non capisco. Oh via, calzotto. È un gran calzotto. Ma ha fatto rimborsare qualcosa? Si è andato a cosa del legno, no? Non rimborsava nulla, ho chiesto. Gli ho detto guarda mi è partito il termico così ha preso fuoco a me, poi ha fatto danno anche la tazza a fianco, dice purtroppo dice e tu faccia la domanda, dice noi non rimborsiamo nulla, ma detto. Ho detto vabbè, è un lavoro che mi dica io. Vuol dire che mi compro il termico nuovo e i televisori. E così ho fatto. Uno l'ho preso da Rossi e l'altro sono andato da MD a comprarlo. 300 euro in tutto speso, 350 euro. Vabbè, sempre spende che non viene a un uso, ohia, casotto. Ma mi c'è i parafusi, non ce ne sono, scusate. C'è il Conti, c'è il parafusi delle antenne 5G e poi c'è la 15.000. Che bella quella, ogni tanto parte, si stacca la cabina. E già vedo, stacca la cabina, vicina, io, con il gasotto, sai stacca. Io ho visto una volta un amico della Veloce che non c'è più, è morto, perché il figlio dell'amico mio mi ha trovato a casa sua. Io tanto gli ha sciolto l'antenna, dentro la voce della stazione gli ha sciolto tutto quanto. Lui c'aveva la parabola, tutti i muri, tutti bruciati, i muri, tutto nero. Anche la cameretta l'ha bruciato, l'ha bruciato anche la cameretta. Sì, già lo so, di che ti stai parlando. Ma lì sotto quel palazzo è tutto pieno d'acqua, già lo sai, già. Quel punto lì c'è la dragonaia sotto, e anche a Santa Maria di Pisa dove c'è il grattacielo. Lì se pensi a trovare le baracchine sei morto. La prima cosa che deve essere molto fortunato che non esce dal fulmine, perché quando avevo pensato la penna a questo CB, che adesso non mi ricordo il nome, Simba, a figlio di Simba, viene sceso il fulmine e lì, da lì è passato l'ascensore, gli ha spaccato tutto. Maledetto, Fuglia. E poi gli ha fatto un danno grosso a un'altra persona, Sassari, perché non fa. È un casotto, se c'è un parafulmine vicino, una cosa dell'altra. Bene, Antonio, mi ha fatto piacere sentirti, mi sta chiamando mio nipote, tu. Mi gioco un pochino là, fino alla cena. Saluto una Simona, saluto tutti gli ascoltoni, e ci sentiamo domani se concilia, dai Antonio. Ciao Mari, ci sentiamo, stammi bene, buon cuore, buon tutto e salutami tutti in casa. Già ci vediamo quando vuoi, basta chiamarmi al telefono. Ok, ciao. Ciao, sono stammi libero, vai tranquillo. Stammi libero qualche volta, già ti chiamo, ciao. Ehi, ciao, alla prossima, ciao.